you're listening to Rock FM. Rock FM. Buona mattina a tutti voi, perché è mattina, eh? Abbiamo superato praticamente da pochi secondi la mezzanotte, quindi siamo già entrati nel sabato del 17, esatto, sabato 17, come promesso ci siamo e tra pochissimo ascolterete tutte le voci. Questa Heavy Metal Nightmare, da quanti anni non faccio una nottata live, erano i primi tempi di Rock FM, qualcosa di notte abbiamo trasmesso, però è veramente un'occasione speciale essere con voi insieme per questa lunga notte, che poi alla fin fine, guardando tutto il materiale che abbiamo portato, sicuramente non ce la faremo a mettere in onda tutto, ad accontentare tutti, e quindi ce ne scusiamo già all'inizio, perché in 6 ore dobbiamo concentrare l'hard rock, il glam, il power, il metal, il death, il black, eccetera. Ne abbiamo veramente di tutti e di più, tante chicche, tanti gruppi famosi che ascolteremo magari con delle versioni live o delle rarità, eccetera. Vado a presentare il cast di questa Hard and Heavy Nightmare. Dall'altra parte della regia, Mr. Max De Rio. Oh, grazie Marco, cornacione fottuto rock and roll più che mai adeguato. Questo ci voleva. Questo slogan che ci accompagna e che questa notte ci terrà compagnia fino alle 6 del mattino. Speciale Hard and Heavy Nightmare, una lunga nottata, ne abbiamo preparate davvero tantissime. Vi ricordiamo subito che siamo in diretta innanzitutto, quindi sono passati 3 minuti dopo la mezzanotte, e vi ricordiamo che sono attivi anche i nostri contatti, quindi se ci sono gli amici nottambuli con le corna al cielo che hanno voglia di chiacchierare con noi, possono farlo attraverso 335-100-7777 per gli sms, e poi sono valide le nostre due caselle di posta elettronica, la mia che è max@rockfamily.it e quella di Marco, marco@rockfamily.it. Non ci siamo soltanto noi come voci, una voce che ci ha accompagnato 5 o 6 anni fa, vi accompagnava di notte, era il giovedì notte se non vado errato, il programma si chiamava Witching Hour, per soddisfare gli amanti del genere più estremo. Witching Hour spiegherà che cos'era il nome del programma. Il suo nome è Luca Marchetti. Ciao Luca, benvenuto e ben ritornato a Rock FM. Sono felicissimo di essere qui e vi saluto tutti. E c'ho un po' di ritorno in cuffia però. E innanzitutto la mia prima notte che faccio di diretta alla radio è stato un onore quando sono stato contattato dalla redazione di Rock FM per presenziare a questa nottata e... Sei contento, sei emozionato, perché emozionato i tuoi programmi, facevo io la regia a te, erano tutti registrati. Erano tutti registrati. Non venivi in onda a mezzanotte, nonostante Witching Hour, nome di un pezzo dei Venom, giusto? Sì, ecco, sì, esatto, sì. Esatto. Abbiamo spiegato anche questo. Tu sarai in diretta dalle, cioè sei già in diretta adesso, sì, ma il tuo spazio dalle 3 alle 4 stanotte. Preparato che cosa? Tutto. Preparato tutto, un'ora di Data Black Metal fino al 91, poi... Poi basta, anche noi ci fermeremo in quelle annate lì, anche noi ci fermeremo. Vado a completare il cast, il mio personale autore, che ringrazio di tutto cuore, che mi ha accompagnato e mi sta accompagnando ancora in questa avventura di Arden Davy da anni e anni e anni, Simone Scavo. Ciao Simone! Ciao a te Marco, grazie, un metà saluto a tutti gli ascoltatori. Per me è una grandissima gioia essere qua, spero che tutte le canzoni selezionate, tutto quello che abbiamo passato siano piaciute agli ascoltatori. Sì, perché di solito Simone praticamente è la mia voce, cioè io leggo quello che lui mi scrive, quindi alla fin fine questa sera sentite anche la sua di voce. Anni e anni fa non avrei mai pensato di poter arrivare qui in studio. Ero un ascoltatore, poi io ti devo ringraziare della possibilità che mi hai dato, è veramente stupendo. Dopo un intro così non si può che essere carichi. E noi siamo pronti, siamo pronti per partire. Allora, più che altro perché è un gruppo leggenda, un gruppo che inizia per la A e quindi la prima lettera dell'alfabeto. State capendo di che cosa si tratta con la A, quanti gruppi? Beh, ce ne sono diversi, però... Gli ABBA mi dicono, no, non sono gli ABBA. Nome corto comunque, AC/DC. Degli AC/DC ero indeciso se mettere il loro primissimo singolo che si intitola Can I Sit Next to You, però assolutamente sembra un pezzo da Sanremo, nemmeno loro probabilmente se lo ricordano. E questo album, vi spiego di che cosa si tratta, un album rarissimo, anche se noi lo abbiamo nella versione rimasterizzata in CD. Negli anni 70, fine 70, valeva e veniva venduto a oltre 300.000 lire, 300-400.000 lire, ed era veramente una cifra elevata perché non era mai stato messo in commercio, era un promo radiofonico che l'Atlantic Records, la loro etichetta discografica, aveva dato ad alcune radio in America per proporlo. Quindi un concerto registrato dal vivo con pochissima gente, ci sono stati un 100 persone presenti negli Atlantic Studios, appunto di questa etichetta. Vi renderete conto adesso quando lo mandiamo in onda che anche il fonico era un po' un caprone, perché gli ha aperto il microfono Bon Scott in ritardo, eccetera. Il pezzo si intitola Livewire, ripeto, lo ritrovate nel cofanetto Bonfire che è uscito un po' di anni fa, se lo volete, perché qui ci sono veramente delle grandissime canzoni. AC/DC from the Atlantic Studios, e si parte. Welcoming you all to the world famous Atlantic Recording Studios in New York City for the first in a series of live radio concerts. Please welcome AC/DC. Please, we're now on air. And we'd like your participation. This is a song called Live Wire. Ah! Matt Angus, naturalmente, live from the Atlantic Studios. Avete sentito anche il DJ, il commentatore ufficiale, che lanciava questo nuovo programma e incisero proprio un vinile che durava qualcosa come 35 minuti, perché 35-40 minuti, e poi venne regalato per essere proposto e presentato ad alcune radio americane. E da lì, visto che non era mai stato messo in commercio, è diventata una super rarità. Questa era Livewire. Ora un po' uno scherzetto. Intanto ringrazio tutti gli amici che stanno scrivendo eccetera, e tra poco o più avanti naturalmente vi risponderemo, perché siete veramente in tanti, questo ci fa enormemente piacere. Visto che abbiamo ascoltato gli AC/DC, adesso Simone, ultimamente è uscita una band proprio australiana. Esatto, gli Airborne. Gli Airborne. Esatto, con il loro, diciamo, secondo album. Il secondo album, il primo è introvabile, però ho chiesto a mia cugina che abita là, lo sta cercando, me lo manderà, poi non so se riuscirò a programmarlo. Sarei curioso di sentirlo. Esatto, e li vedrete dal vivo al Gods of Metal. Esatto. Ecco, sì. Sono una band che sono praticamente gli AC/DC stile anni 70, molto carichi anche dal vivo. Però già negli anni 90, a parte le tribute band, esisteva in Svezia una formazione che si chiamava ABCD, quindi cambiava praticamente solo la C in B, il logo era scritto uguale, il gruppo praticamente aveva anche dei pseudonimi che si avvicinavano ai nomi reali, cioè c'era Bengus, c'era Nalcom, c'era Brian, Klim e Flint, questa era la formazione. I pezzi sono praticamente il sound degli AC/DC, però sono tutti testi scritti da loro, quindi naturalmente le canzoni hanno uno svolgimento a livello di liriche completamente differenti. Li andiamo ad ascoltare con questo raro album 1992 dalla Svezia, Jackpot Bingo è il titolo del pezzo, ABCD. Se lo volete cercare, l'album si intitola Rock and Roll Devil, e poi a livello di rarità nell'86 incisero un mini LP, ABCD dalla Svezia. E dalla Svezia questa lunga nottata allo speciale Arden Devi Nightmare, una notte dedicata all'hard rock e all'heavy metal. Invece, caro Marco, ti farò fare un lungo viaggio. Beh, no, in effetti da quella parte forse è più vicino, visto che stiamo andando ovviamente in California. Sì, più vicino. La città è quella di Los Angeles, città che così tanto ha dato dal punto di vista della storia, del genere che andremo ad affrontare questa sera. E così, come mio primo pezzo di questa sera, ovviamente l'imbarazzo nella scelta c'è, perché sono tantissimi i gruppi che avrei voluto citare, ma abbiamo così tanto spazio che li troveremo quasi tutti. La scelta però è caduta sui Motley Crue e sul loro primo album che si chiamava Too Fast for Love, che noi ascoltiamo grazie alle note di questa Take Me to the Top. Angeles, California, Motley Crue, The Bad Boys of Rock and Roll, un nome che ancora forse non avevano imparato a utilizzare, ma che con gli anni diventerà un loro marchio di garanzia. Take Me to the Top, la scelta è caduta anche e soprattutto nella speranza che sia di buon auspicio per questa lunga nottata che è appena iniziata. Speriamo davvero di riuscire a portarvi al top, anche se vedo che qualcuno è già pronto per andare a fare un riposino. Mi auguro non voi l'ascolto, ma direi proprio di no, a giudicare dai tanti messaggi che già stiamo ricevendo. Allora fatemi subito salutare gli amici della notte, Andre, Manolo, ritorno da partita di calcetto con voi, un saluto, dice. Jordi e Elida Luca saranno della partita, ma da Livorno, Sentinel 77 deve andare a nanna, ma si sveglierà alle 5 con noi. Ti perderai qualcosa, tra l'altro io ti consiglio, conoscendo la tua passione, di aspettare ancora qualche minuto, perché la prossima potrebbe essere buona per i tuoi gusti. Grazie a Max Murdoch, corna al cielo, un fottuto membro nottambulo della Rock Family, sarà con voi tutta la notte. Grazie fratello, salutone dal notturno, Fede è vero. Grazie mille Marco per la compagnia che mi hai fatto in tutti questi anni, scrive Stefano 68 da Firenze. Stanotte cercherò di resistere più a lungo possibile, ma dopo un giorno di lavoro sono stanco come un mulo. Povero Stefano, hai ragione. Comunque, up the heavy metal. Max e Marco, vi sto ascoltando via cellulare, grazie al Tritone di Livorno. Gianluca da Conselice, provincia di Ravenna. Non date canzoni sdolcinate, tenetemi sveglio. Beh, insomma, dai, caro Gianluca, qualcosa di sdolcinato ci starà, ci starà. Grazie anche a Sebastian, che ci definisce The Four Horsemen of Rock FM. Sto registrando tutto, Max da Milano. Anche noi, tranquilli. Penna alla mano per prendere appunti sulle band, birretta e 6 ore di fuoco. Dove si trova una radio che viene seguita per tutta la notte, che ne dà la possibilità? Solo qui, a Rock FM. Grazie a Jag, grazie anche a Benny. Marco, cosa hai preparato per allora noi? Andiamo tra i più grandi del mondo heavy metal. Questo che andiamo a proporre, un estratto da Painkiller, era il 16° album già della formazione, che è iniziato nel 1974. Judas Priest, l'album di Painkiller vedeva l'ingresso di Scott Travis alla batteria, proveniva dai Racer X, quindi grande potenza, grande suono. Su quest'album naturalmente si trova Painkiller, che non mettiamo questa sera proprio per variare un po'. Chi c'era anche presente in quest'album, Simone? No, c'era più che altro le tastiere, Don Airey, quindi grande scuola. Sì, ma è bello perché siamo nel 1990, quando ormai la spinta della New Wave si stava esaurendo, heavy metal stava per essere soppiantato da altri generi, e loro cosa fanno? Appunto mettono uno Scott Travis alla batteria, che pesta duro delle Series X, e soprattutto cosa fanno? Decidono di scrivere un capolavoro dell'heavy metal. È veramente un album incredibile, però io vi consiglio anche Sad Wind of Destiny, Scene After Scene, ancora Stained Glass, Killing Machine, ce ne sono veramente tanti nella discografia di questa band. Ce li ascoltiamo, Judas Priest. lo so. Nightcrawler, il pezzo che abbiamo ritrovato, che vi abbiamo proposto da questo bellissimo capolavoro Painkiller per la formazione dei Judas Priest. Rimaniamo, andiamo anzi invece no, andiamo da heavy metal, andiamo sul epic metal. Morte al falso metallo, e naturalmente questa frase è stata coniata dai Manowar. Sì, giusto Marco, per ribadire il concetto che in effetti c'è stato un episodio nella storia che è stato più volte ricordato, che magari nella nostra ultima settimana, l'ultima diretta del 31 sarà ancora citato, ma questo non preclude il fatto che comunque per noi sono rimasti un gruppo, quantomeno almeno per me personalmente, con i loro primi lavori, sicuramente un gruppo fondamentale per la storia dell'heavy metal. Il termine epico è giustamente accostabile al loro aspetto e anche alle loro liriche, soprattutto nel lavoro che ho deciso di farvi ascoltare, visto che in questa speciale Ardent Heavy Nightmare non potevano mancare ovviamente i Manowar, e io ho scelto questa Battle Hymns. È in arrivo. Arriva. Primo album. Siamo nell'annata 1982. al cielo è fottuto il rock and roll. Questa è la lunga notte dedicata all'hard rock e all'heavy metal, speciale Hard and Heavy Nightmare. Questi erano i Manowar. Stavo notando che una strana curiosità, coincidenza, mi ha portato a programmare due brani, quello dei Motley Crue e quello dei Manowar di adesso, datati 1982. Ma tutte e due, 82. Erano reminiscenze. Sarà successo qualcosa. Di vittorie mondiali, può darsi, essere. Può darsi. Una curiosità: Joe DiMaio e Ross The Boss hanno dato vita ai Manowar e si sono conosciuti perché Joe DiMaio lavorava agli effetti scenici del tour dei Black Sabbath. Insomma, schiacciava il bottone della macchina del fumo, effetti scenici o gli effetti pirotecnici. Lo capisco benissimo, anch'io l'ho fatto però con Antonello Venditti, okay. E ti dico che era meno gratificante. Era meno gratificante. Ross The Boss suonava la chitarra in un gruppo francese dove c'era una donna che si chiamavano Shaking Street che facevano da supporto ai Black Sabbath, e ho detto va, è meglio che lasciamo perdere queste cose che stiamo facendo, ci mettiamo insieme. E da lì sono poi nati, sì, i Manowar. E poi una volta si sarebbero vestiti anche da barbari per la loro prima parte della discografia. Stile Conan il, sì, barbaro. Anche la flagella di Dio. Esatto, anche. Esatto. E si narra anche che il primo contratto discografico abbiano firmato con il penna calamaio e il sangue. Qualcuno però l'ha smentita questa, infatti, cosa. Credo che sia più una leggenda metropolitana. È una leggenda. In ogni caso, il brano e l'album che abbiamo ascoltato erano Battle Hymns. Battle Hymns. Allora, visto che sono arrivati una marea di SMS. Certo. E ti tocca, Marco. Mi tocca a me. Allora, chi ci farà ascoltare queste chicche da giugno? Grazie per l'ottima musica. Ci avete regalato Susanna da Firenze. Grazie a te. Ciao amici, questa sì che è una notte rock and roll. Klaus Korn al cielo è fottuto rock and roll. Siete sul serio in diretta? E come no? Sono le 12:39. Siamo qui tutti, Simone, Luca, siamo in diretta, non è registrata. Anche. Io sono di ritorno da lezione in palestra, suon di techno e cena con sottofondo lounge. Ora mi godo il programma, aspetto l'alba sul divano con voi. Baci, Francesca, Pat 740. Un saluto da Daniela e Lidia, seduti sul sedile posteriore dell'auto dopo aver consumato, bravi, nella speranza di ascoltare qualcosa dei Guns. Aspetta allora, adesso ti dico. Siete grandiosi, Berta da Firenze. Grazie di esistere, Andrea, ancora da Firenze, sono uscito ora dal lavoro e voi ci siete, meravigliosi. Dal 31, però finisce il tutto. Vabbè, questo è così. Caro Max, questa è per te, la leggerai dopo. Okay. Appunto, Max, proprio solo Rock FM, Ivan da Monte Argentario. Nightcrawler, uno dei più bei pezzi dell'album. Inizio da 100 e lode. Metal Meccanico da Firenze, Mitici Judas, dal Rock and Roll di Milano. Salutiamo i locali e i pub che magari ci stanno sentendo. Pochi, non lo so, magari sono veramente pochi. Però dal Rock and Roll di Milano in diretta con la radiolina portatile è il Joker del database. Saluti dal reparto trapianto di fegato, scendi Hank, pistola, consorte, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora Giuda, Giuda, e poi ci perdiamo. Allora, abbiamo detto Guns N' Roses, ma non sono, allora, ci sono, ma non ci sono. Andiamo a prendere questa raro vinile ed è la colonna sonora di un film, The Decline of Western Civilization Part 2, The Metal Years. Ci sono dai Fast and Pussycat, Motorhead, Lizzie Borden, Megadeth, Queensrÿche, Metal Church, Rigor Mortis, ma viene aperto il tutto da un brano di Alice Cooper, Under My Wheels, cantato da Alice Cooper con Axl Rose / Ace dei Guns N' Roses. Arriva, vinile. Wales, beh, la voce di Alice Cooper l'avete sentita, ma quella di Axl Rose, applausi, insomma i Guns, questa è veramente una chicchina piuttosto difficile da reperire. E adesso la prossima band che vi proporrà e vi presenterà il buon Max, li possiamo definire i missionari dell'hard rock, una delle poche all'epoca band di Christian Hard Rock. Diciamo che anche in questo caso si potrebbe, qualcuno vocifera, si potrebbe parlare di leggende metropolitane. In effetti non è mai stato chiarito quanto ci credessero davvero. Stiamo parlando degli Striper, che erano noti perché nelle loro composizioni erano dei veri e propri inni a Gesù Cristo, alla Bibbia, che tra l'altro veniva distribuita durante i loro concerti, venivano lanciate queste Bibbie. Quante ne hanno stampate stampare? Esatto. Questo unitamente a un look che riportava i colori appunto dell'Ape Maia. No, dell'Ape Maia sì, in effetti ricordava anche quello, ma era del profeta Isaia, che aveva questo accostamento fra il giallo e il nero, e giocavano molto su questa cosa. Al di là del discorso del dare più o meno importanza ai testi, qualcuno l'ha fatto forse esageratamente, qualcuno invece se ne sbatteva altamente, diceva comunque suonano bene, sono molto bravi. Sicuramente dal punto di vista della tecnica esecutiva erano tutti dei grandissimi musicisti, e Robert Sweet, il cantante, aveva una estensione vocale davvero davvero molto molto importante. Forse era Michael. Robert era il fratello batterista, poi dopo ha continuato anche la carriera solista. È vero. Tra l'altro ultimamente si sono anche riuniti per un tour che riguardava ovviamente solamente il territorio americano, un tour del quale ho sentito cose non troppo positive. Probabilmente gli anni passati l'età hanno lasciato il loro segno, non c'era più lo smalto di una volta, lo smalto che invece sicuramente avevano in questo album, che secondo me è il migliore della loro produzione. L'album si chiamava Soldiers Under Command. Ho deciso di farvi ascoltare la traccia numero 5, che si intitola The Rock That Makes Me Roll. Striper. Gli Striper con The Rock That Makes Me Roll, come vi dicevo, una grande voce quella di Michael Sweet, che tra l'altro, oltre a questa reunion della quale vi parlavamo, è notizia proprio recentissima, si è unito, ha unito la propria ugola preziosa a un tour che vedrà impegnati addirittura i Boston, che come sapete purtroppo hanno dovuto accettare la 12 marzo il suicidio di Brad, la grande scomparsa di Brad Delp, il loro cantante ufficiale, il cantante storico della band. Nonostante ciò hanno deciso di continuare, infatti nel prossimo periodo estivo gireranno in tour per, soprattutto e solamente in purtroppo in America e in Canada, e a prendere la voce di Brad Delp, la voce, ci sarà proprio lui, Michael Sweet. Tra l'altro grazie anche all'amico Filoff che ci dava questa segnalazione, che abbiamo prontamente verificato e abbiamo subito riportato, perché anche durante speciale Hard and Heavy Night siamo sempre comunque radio di servizio. Vuoi salutare qualcuno? Sì, sono ancora tantissimi davvero, anzi vi ringraziamo per i tanti messaggi, questo ci riempie il cuore di gioia, visto che non saremo soli a non dormire questa notte, Marco. Ma guarda che se ne è già andata quasi un'ora. È vero, è vero, veramente velocissimo. Rimanete con noi perché ancora, non voglio dire che il meglio deve arrivare, ma abbiamo ancora tantissime cose da farvi ascoltare. Tra l'altro le prossime due saranno particolarmente interessanti, e vi ricordiamo, visto che ancora lo vedo sveglio, esatto, l'amico Luca Marchetti in arte Witching Hour sarà Luca, con voi dalle 3 alle 4. Dai, buttaci qualche nome che non stiamo mettendo, che hai preparato dopo. Vabbè, naturalmente Slayer, quindi Slayer ve li mette lui. I Venom ve li mette lui. Li utilizzerò come sigla. Come la sigla. Migliore tradizione di Witching Hour. Già che tu le cose non commerciali non le vuoi. No, assolutamente, va bene. Commerciali, poi insomma. Poi dopo il resto lo trovate. Sì. Sveliamo qualcos'altro? Stiamo in America, Possessed, Dark Angel. Ah, ecco quelle cose lì. Roba leggera, insomma, tranquilli. Vabbè, ecco, che già adesso. Per dovere di cronaca, Marco, dobbiamo dire che durante la trasmissione degli Striper, Witching se n'è andato. Eh sì, è vero, ha detto posso andare di là, se n'è andato. Seguito. Esatto. Salutiamo ancora rapidamente Max da Luca, Jimmy 69 e Mao 77. Stanotte sarò dei vostri anche con mio fratello, grande, e ci vediamo anche in Via Locatelli il 31. Questa è una cosa davvero molto molto bella. Grazie da Ivan dell'Argentario. Se continuate così è fin troppo facile arrivare alle 6, siamo abbastanza da far capire che basta una radio ad esistere purché fatta bene. Grazie anche all'amico Catti Vic da Cosenza, qui si parla di streaming, quindi buonasera. A proposito di rarità e curiosità, sapreste dirmi se il loro doppio bootleg, si parla di AC/DC, Monster of Rock, che possiede la prima testimonianza live insieme a Brian Johnson? Guarda, il mondo dei bootleg è veramente troppo vasto da seguire, non ti sappiamo rispondere. No, lui sta parlando, secondo me, della data del concerto, perché si chiede se il 22 agosto 81 è stato il primo concerto di Brian Johnson con gli AC/DC. Con gli AC/DC a Donington, a Castle Donington. Basta fare una breve ricerca. La faremo. Salutiamo Marco da Sciarborasca, in provincia di Genova, che invece scrive: sono poco interattivo, ma sempre presente, e la sua testimonianza è questa: ma il Simone che sentiamo parlare è quello di 1-2-3 Rock FM. Mi ha certo, le proprie lì si ero dice killer, ero killer. Sì, esatto, Simone. Grazie in arte killer, grazie di aver ricordato 1-2-3 Rock FM, che mi ha dato tante soddisfazioni dalle cabine telefoniche. Grazie ancora Easy, grazie a Sentinel 77 che abbiamo già salutato, Walter da Genova, Vale, che bello arrivare a casa dopo una giornata di lerda e trovare voi, vi amo famiglia, sì, è proprio una grande famiglia, vi seguo finché reggo, dai, il fisico a quest'ora inizia un po' a cedere. Grazie a Fabio, che musica ragazzi, sarà dura andare a dormire, non lo dovete fare questa volta. Avete visto la versione di Battle Hymn su Absolute Power? Qui si, credo si parli di cose delle quali Marco è forse più ferrato, forse si parla di giochi elettronici, Marco? Beh no, su questo non l'ho visto, no. Va bene. Tre batterie, tre chitarre. Poi vedi, c'è una richiesta per te Marco, questa la lasciamo, grandi Manowar, se andate avanti così sveglio tutto il palazzo. Okay. Saluti ancora Gianluca, Rock FM, vi voglio bene, ci saranno i The Flapper in questa sì, serata. Sì, chicca anche su quella. Sì. Ne abbiamo tantissime, però direi basta saluti, riprenderemo dopo. 335-100-7777 sono attivi anche i nostri indirizzi di posta elettronica, il mio max@rockfamily.it e quello di Marco ovviamente marco@rockfamily.it. E allora andiamo ad un capolavoro del signor Dave Mustaine, capolavoro del thrash metal a mio giudizio, è l'album che preferisco della loro discografia, i Megadeth. L'album è Rust in Peace. Sì, Rust in Peace, veramente qui ha avuto un'illuminazione Dave Mustaine, perché ha cambiato la line-up, ha fatto entrare Marty Friedman, dei Cacofoni, veramente un grande. Chitarra. Sì, alla chitarra e alla batteria Nick Menza. E lì hanno le composizioni le rese più complesse, lunghe, ma stupende. 1990 l'album veniva aperto da questa canzone. apertura Holy Wars da Rust in Peace, la formazione dei Megadeth, e qui naturalmente il gruppo dei Megadeth, lo sappiamo, è capitanato da Dave Mustaine.